verso il voto. Silvio Berlusconi interviene a Porta e chiude al Colosseo la sua campagna elettorale. Walter Veltroni a Milano prende un caffè con George Clooney e parla in Piazza Duomo. In diretta Raffaella Calandra. Sì, buonasera. Gli ombrelli democratici, secondo la definizione dello stesso Veltroni, formano una grande bandiera italiana in Piazza Duomo. Sotto la pioggia il segretario del PD conclude la sua giornata milanese, vigilia di chiusura anche di questa campagna elettorale. Tra un abbraccio con Giorgio Clooney, che gli ha confermato il suo appoggio in nome anche della comune passione per l'Africa, e varie interviste, Veltroni ha riconfermato il suo no all'ipotesi di larghe intese e ha tracciato qualche punto della possibile futura politica nel caso in cui dovesse salire al governo. No a condoni, avanti tutti, avanti tutta nella linea della lotta all'evasione. Prodi ha recuperato 20 miliardi, è un esempio di singolarità, ha detto Veltroni. Un modello a cui il segretario del PD contrappone quello di Silvio Berlusconi, che cerca la rissa, detto come i bulli a scuola. Il segretario del PD in questo momento, e forse lo sentite, sta arrivando qui sul palco di Piazza del Duomo, dove ad attenderlo ci sono i capilista di Camera e Senato ed esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo. Saremo a vedere cosa dirà alla piazza milanese. E per ora è tutto. Il leader del Popolo della Libertà Silvio Berlusconi corregge il tiro sul presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Gli auguro, dice il cavaliere, un meraviglioso settennato. Ma Berlusconi ribadisce che non darà la presidenza del Senato al Partito Democratico in caso di vittoria del Popolo della Libertà, perché il PD ha già il Quirinale. Il cavaliere è al Colosseo, è contrario ad un governo di coalizione, ma è favorevole a scrivere le riforme insieme, anche se non mancano stoccate contro la avversario Walter Veltroni. Allora qualcuno ha detto, ma allora anche i candidati premier si devono sottoporre a questi esami psichiatrici. E io ho detto, io sono d'accordo con Veltroni, io non credo di avere nessun problema, perché per esempio io sono Silvio Berlusconi e credo davvero di essere Silvio Berlusconi. Walter Veltroni qualche problema ce l'avrà, perché innanzitutto non si ricorda il nome del suo principale competitor, che sono io. Quindi non si ricorda nemmeno che al governo oggi ci sono ancora loro e continua a criticare il governo come se facesse parte dell'opposizione. Io non credo che ci possano essere italiani così grulli da poter cadere in un tranello di questo genere. E al cavaliere al Colosseo non mancano le battute e ironizza sulla sua altezza. Oh, io sono 1,71, non scherziamo. 1,71 alla visita militare, si fanno scommesse composte importanti. Poi c'ho anche i tacchi. Ma perché voi non li avete? Sul fronte economico Berlusconi promette che al primo Consiglio dei Ministri adeguerà le pensioni al costo della vita e abolirà l'ICI sulla prima casa. Non manca un appello all'UDC e alla destra per tornare con il Popolo della Libertà in un futuro, ma continua a rivolgere un appello al voto utile e a non votare i piccoli partiti. Dal canto suo il leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini avverte Berlusconi sul dopo voto. Chiunque vincerà le elezioni dovrà fare i conti con noi, e se Berlusconi non avrà l'autosufficienza alla Camera, vada a casa, torni ad Arcore, e Veltroni torni anche lui a Roma, ma non a fare il sindaco che ha già fatto troppi danni. Nella destra il candidato premier Daniela Santanchè accusa Veltroni e Berlusconi di inciucio. Ci sono mai prove tecniche di inciucio? Io non credo che gli italiani si meritino questo, e mi auguro che abbiano un sussulto nel segreto dell'urna. Nella sinistra arcobaleno Fausto Bertinotti chiude in piazza Navona e sprona i suoi ad andare di casa in casa per chiedere il voto. Riprendiamo il cammino, ci abbiamo riprovato ieri dall'opposizione, come diceva un grande intellettuale, un grande rivoluzionario italiano Antonio Gramsci, il compito nostro è provare e riprovare, ci abbiamo provato dal governo, ci riproveremo dall'opposizione per cambiare noi il nostro destino, l'Italia e l'Europa. Enrico Bosali dei socialisti critica gli appelli di Veltroni sul voto utile, un Berlusconi era sufficiente, non avevamo bisogno del Berlusconi della sinistra, quella di Veltroni e Berlusconi, dice Boselli, è una campagna elettorale a colpi di promesse, bugie e fiumi di denaro pubblico. Verso il voto finisce qui un saluto da Elisabetta Fiorito.